Dunque, la situazione adesso è, diciamo, di fase successiva all'emergenza, ovvero grazie alle tantissime squadre di volontari di protezione civile messe a disposizione, che hanno anche dei mezzi idrovori, le idropulitrici, eccetera, stiamo assistendo i cittadini che hanno bisogno di fare questo lavoro in questo momento, cioè svuotare cantine, garage, le abitazioni al pian terreno, pulire dal fango, dalla melma, svuotare dall'acqua, insomma, quindi siamo nella fase in cui, passata l'emergenza, cerchiamo di aiutare nel superarla, ecco. Intanto diciamo le persone evacuate sono tutte rientrate, appunto l'emergenza diciamo è passata. Praticamente la totalità delle persone è rientrata a casa ieri, salvo case isolate che magari ieri erano ancora allagate o salvo qualche situazione proprio molto particolare. Direi che la quasi totalità ieri, una volta che nella mattinata la viabilità si è liberata perché l'acqua si è ritirata e le strade erano libere, è stata in condizione di tornare a casa propria e per fortuna. Per cui oggi di fatto si fa un po', non dico la conta dei danni, ma si prende contezza dei danni subiti e si cerca di porre rimedio, ecco. E a proposito di Conte, appunto, volevo anche sapere se avete già preso accordi anche con diciamo gli enti regionali e anche nazionali rispetto alla possibilità di risarcimenti per gli alluvionati. Allora, noi abbiamo subito fatto richiesta di attivazione, diciamo, di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e ieri abbiamo avuto un incontro in prefettura con anche il presidente Bonaccini, il presidente della regione, il quale ha assicurato la massima, diciamo, vicinanza e collaborazione per quanto riguarda i risarcimenti alle famiglie. È chiaro che ancora non siamo nella fase di raccolta, diciamo, delle dichiarazioni di danno subito, ancora dobbiamo, diciamo, avere indicazioni precise su questo, ma l'indicazione che stiamo dando a tutti è quella di tenere le ricevute, le fatture delle spese che stanno sostenendo o che hanno sostenuto per il danno e anche di fotografare i danni subiti in modo che appena saremo pronti, nel più breve tempo possibile, partiremo con questa fase, cioè quella della raccolta effettivamente delle dichiarazioni di danno e speriamo nel più breve tempo possibile, appunto, di risarcimento, di indennizzo dei cittadini colpiti. Quindi insomma, diceva all'inizio, tanta solidarietà anche da parte di volontari e a questo punto anche da parte degli enti, diciamo, sta andando tutto bene in questa fase di gestione? Assolutamente, parlo di volontari di protezione civile coordinati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dalla Protezione Civile Nazionale che è stata con noi e ci ha supportato. Abbiamo un presidio fisso del Vigile del Fuoco in Piazza d'Argelato che sta coordinando le operazioni di intervento nelle case. Abbiamo una stazione mobile dei carabinieri insediata qui da ieri. Devo dire che da ieri mattina abbiamo avuto tutta la collaborazione, tutta la, diciamo, l'arrivo di forze necessarie per affrontare l'emergenza, che naturalmente non cancella il danno subito, ma che sicuramente in questa fase ci aiuta a supportare i cittadini. Perfetto, un'ultima domanda è: se qualcuno avesse bisogno di aiuto, che cosa deve fare e a chi si deve rivolgere? Chi ancora non ha segnalato il proprio stato di necessità e ha bisogno di un aiuto concreto, parliamo di braccia e di strumenti per pulire, per traslocare, per portare i mobili fuori di casa oppure dalle cantine, dai garage, può venire al centro di accoglienza dei cittadini che abbiamo istituito in comune, nella palazzina dell'ufficio tecnico, e segnalare l'esigenza. Abbiamo anche una linea dedicata, ma in ogni caso se i cittadini vengono da noi, grazie appunto al coordinamento anche dei vigili del fuoco, noi mettiamo in fila le priorità e le esigenze e sicuramente mandiamo una squadra. Voglio chiarire che tutte le situazioni verranno gestite con il tempo che serve, ma abbiamo un numero di squadre molto importante a disposizione, quindi in breve tempo contiamo di aiutare tutti.